sottovoce. Non correre più. Benvenuto nel cammino dell'oblio, dove il sogno ha il sopravvento, dove gli alberi camerieri porgono il cielo in piatti di coccio. È l'ora di fermarsi un po', vomitare gli idoli cromati, stracciare le icone di carne, mondare gli artifizi, scrostare la naftalina dall'anima. Piangere serve al riso, per non essere storpio. Ogni coscienza ha un altare, ogni vizio una quaresima. Non correre. Lascia che il tempo fermi un po'. Togli lo zolfo dalle dita e l'alloro dalla corona. Guarda i piedi, nudi. Camminare soltanto tra loro e la musica che sale dalle gambe. Non c'è nessun altro posto. Il sole, la pioggia, il vento sono il Graal che avevi.